Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. L'Italia è stato il paese europeo più colpito dall'epidemia di Covid-19 e il timore ora è che possano ampliarsi gli squilibri con nazioni più forti e competitive. In attesa di definire concreti sistemi di aiuti a livello comunitario, quindi, i vari settori economici si interrogano sulla ripresa. Logistica e trasporti, gli strumenti UE per uscire dalla crisi, è il titolo della videoconferenza organizzata dal Parlamento europeo e dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni UE e del governo e gli operatori del settore per discutere sulle possibili soluzioni da adottare a breve e medio termine, sia a livello nazionale sia comunitario. Nell'ambito di negoziati ancora attivi, l'Italia dovrebbe beneficiare del 20% delle risorse del Next Generation EU, ma per il nostro paese sono disponibili anche 130 miliardi di euro già finanziati, a cui sommare 63,38 miliardi di euro veicolati dal Fondo per la Ripresa UE. Quali sono le azioni più urgenti per il rilancio? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica, un mondo che è stato analizzato questa settimana in una videoconferenza, un dibattito dal titolo Logistica e trasporti, gli strumenti della UE per uscire dalla crisi, organizzato dal Parlamento europeo in Italia. Tra i rappresentanti dei trasporti, in particolare per la categoria dell'autotrasporto, c'era Pasquale Russo, segretario generale di Conftrasporto, che abbiamo ospite qui con noi oggi. Buongiorno e grazie per essere in trasmissione. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Allora, logistica e trasporti, gli strumenti UE contro la crisi. Già il fatto che il Parlamento europeo, la rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, affronti questo tema credo che sia abbastanza significativo ed espressione di quanto sia importante questo segmento per l'evoluzione dell'economia non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Sì, è evidente a tutti, ormai anche ai non addetti ai lavori, che logistica, trasporti, infrastrutture e collegamenti intercontinentali sono la chiave di sviluppo e anche la chiave di volta per far vincere le diverse economie che ci sono a livello continentale ma anche a livello mondiale. Quindi è evidente che il Parlamento europeo si stia preoccupando di quali sono stati gli effetti della crisi sul settore del trasporto merci. Presenti a questo appuntamento, a questa videoconferenza, molti esponenti, molti europarlamentari, ma anche molti rappresentanti del mondo dei trasporti, perché l'analisi è stata fatta a 360 gradi su tutte le modalità di movimentazione di merci, ma anche di passeggeri. Che cosa è emerso in particolare per i trasporti? E poi entriamo nel dettaglio dell'autotrasporto. Ma è emersa la volontà della Commissione europea di stanziare attraverso gli strumenti, i diversi strumenti che sono a disposizione della Commissione, di stanziare fondi importanti anche per sostenere e sviluppare il trasporto in generale, dal Recovery Fund al CEF ai fondi che arriveranno anche attraverso il MES. Quindi la volontà delle istituzioni comunitarie di dimostrare che la Commissione vuole investire, vuole mettere risorse, parliamo di risorse veramente ingenti per sostenere il settore del trasporto, della logistica e delle infrastrutture in genere. Veniamo invece all'autotrasporto e in particolare alla situazione italiana. Quali sono le emergenze che lei ha denunciato in questa videoconferenza? Ma io ho evidenziato un aspetto, che se nel mentre ancora stiamo parlando tra di noi è convincimento comune dell'importanza del trasporto e della logistica, ho evidenziato che metterci soltanto tanti soldi, quindi prevedere tante possibilità di investimento nel settore delle infrastrutture e del trasporto, questo da solo non è una condizione sufficiente per garantire che si possa uscire da questa situazione di grande difficoltà. E ho voluto esprimere invece alcune priorità che dal nostro punto di vista sono anche più importanti della stessa dotazione finanziaria economica che l'Unione Europea può mettere, e cioè alcuni principi, in particolare due. Uno, la necessità che l'Europa, il Parlamento Europeo risolva un problema antico che ancora riguarda la libera circolazione delle merci. Ho voluto ricordare che l'Unione Europea non può investire tante risorse e non risolvere un problema che tutto sommato è abbastanza evidente nella sua illogicità, e cioè la libera circolazione delle merci che non è garantita per effetto delle misure che l'Austria, il Tirolo austriaco, ormai da tanti anni sotto diverse forme impone a tutta l'Europa, ma in particolare all'Italia, perché come tutti sappiamo l'Italia per le consegne, per le linee di trasporto che vanno nel centro Europa, nella parte diciamo orientale, deve necessariamente passare dall'Austria, e quindi non si può elogiare lo sforzo che l'Europa fa mettendo tante risorse e nello stesso tempo non affrontare un problema che infrange due principi fondamentali dell'Europa: uno, quello della libera circolazione delle merci, e due, anche questo molto importante, la concorrenza leale tra diversi paesi europei, perché è evidente che quei divieti impattano anche sul principio, certo, della libera concorrenza tra le imprese. Ovviamente, ecco, l'Austria già ben prima del Covid-19 aveva imposto delle misure che riducevano di molto appunto il traffico delle merci, denunciate più volte dalle associazioni di categoria italiane. Durante il Covid, tra l'altro, questi divieti si sono allargati anche alla movimentazione dei passeggeri, ben prima delle chiusure imposte dall'Europa. Qual è la situazione oggi ai confini con l'Austria? Ma la situazione ad oggi continuano ad esserci ancora tutti i divieti che esistevano, che sono stati imposti dal Tirolo. C'è ancora questa procedura di infrazione aperta a livello comunitario, ma non è cambiato nulla dal punto di vista del traffico, complice ovviamente la crisi, complice la riduzione complessiva dei movimenti delle merci. Non c'è un traffico particolarmente elevato, ma semplicemente perché la riduzione appunto del trasporto delle merci riduce il traffico, e quindi, certo, paradossalmente in questo momento non ci sono situazioni di criticità, ma questo non toglie nulla al fatto che è un problema che vada risolto, che andava già risolto prima, figuriamoci adesso. Ecco, poi ci sono delle criticità infrastrutturali italiane, c'è un'emergenza Liguria ormai sotto gli occhi di tutti, denunciata spesso anche dai nostri microfoni, che sta diventando insostenibile per la categoria dell'autotrasporto, perché rallenta di molto le velocità commerciali dei trasporti, con degli impatti devastanti proprio sull'economia. Ecco, questa è la seconda cosa di cui ho parlato, e che si ricollega sempre con la considerazione che i soldi da soli non bastano, e la questione Liguria lo dimostra in tutta la sua evidenza, perché sono stati, volendo fare un caso specifico, sono stati investiti e bene risorse importanti per la costruzione del nuovo Ponte Morandi, e però noi stiamo assistendo ad una cosa incredibile, cioè al totale blocco della circolazione delle persone e delle merci nella Liguria, perché la burocrazia, cronoprogrammi di lavori, di verifiche delle gallerie che si rifanno a circolare antichissime, di fatto stanno bloccando la circolazione delle merci, perché le autostrade sono in questi giorni costretti a dover fare verifiche nell'arco di un mese, e per fare queste verifiche nelle gallerie nell'arco di un mese devono bloccare la circolazione. Noi scontiamo vecchi fenomeni di ideologia sulla contrarietà alle infrastrutture, che si affiancano a nuove battaglie ideologiche. Pensiamo a tutto il contenzioso che esiste tra il nostro governo e Autostrade per l'Italia, che ancora oggi penalizza pesantemente la possibilità di utilizzare le infrastrutture. Ricordiamo anche il caso della 14, che si inserisce sempre in questo contesto. Certo, ovviamente su tutto questo adesso si inserisce tutto il meccanismo di ripartenza dei cantieri, quindi abbiamo ascoltato questa settimana con il semplificazioni si darà il via ad tutta una serie di nuove opere che dovrebbe in qualche modo, perlomeno nel medio e lungo periodo, alleviare un po' questa situazione. Russo, siamo in chiusura, quali sono le altre emergenze? Abbiamo parlato di quella infrastrutturale, abbiamo parlato di quella ai confini, quali sono le altre emergenze che in questo momento deve affrontare l'autotrasporto italiano? Ma l'autotrasporto italiano si troverà ad affrontare una pesantissima crisi di liquidità, complici i cali di fatturati che ci sono sono stati nei mesi precedenti, e complice il continuo rimandare la risoluzione del problema dei tempi di pagamento. Quindi la riduzione dei fatturati da un lato e i tempi di pagamento lunghissimi che si sono ulteriormente allungati in questo periodo di crisi, e la mancanza di interventi che pure il governo aveva promesso alla categoria possono veramente rappresentare un fattore di crisi molto pesante. Certo, e noi seguiremo con grande attenzione ovviamente l'evoluzione di questo settore e anche delle crisi di cui parlava il nostro ospite. Termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo l'ospite di oggi, Pasquale Russo, segretario generale di Conftrasporto. Container torna come al solito sabato intorno alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.